Grazie dell'accoglienza, veramente è un piacere essere qui. Parlo italiano, non preoccupatevi, parlo italiano, almeno tento. In effetti mio padre è di Matera, originario di Matera, mia mamma è di Catania, però io sono nato e vissuto in Svizzera e l'Italia comunque l'ho nel cuore, è una terra straordinaria e sapete l'unica regione che mi mancava era proprio la Puglia, quindi per me è il completamento del giro dell'Italia in questi anni ed è veramente fantastico poter vedere il popolo di Dio sparso in tutta Italia con un unico obiettivo, quello di poter celebrare il nostro Dio. Vi porto i saluti di mia moglie. Lei è francese, abbiamo tre figli, voleva tantissimo essere qui, è molto gelosa di me, giustamente, e quindi vi porto i suoi saluti e è reale, ho veramente una moglie, perché spesso quando vado in giro mi dicono, ma veramente la moglie? Sì, sì, ce l'ho e sono fiero di averla, perché è un sostegno, ci completiamo, andiamo avanti, abbiamo la stessa visione in quello che Dio ha previsto per noi. Sapete, è così bello servire Dio in famiglia. È così bello servire Dio in famiglia con i figli. Spesso vediamo e la mentalità che cerchiamo di combattere è proprio quella, non so, quando arrivano dei figli sembra che tutto si fermi. E invece no, i figli sono una benedizione, non sono un ostacolo per poter lavorare per Dio e con Dio. Anzi, sono una forza e voglio veramente incoraggiarvi a tutte le famiglie che sono presenti, che hanno dei figli, non fermatevi, continuate a servire Dio anche con i vostri figli, perché sono una benedizione, sono un arricchimento per la nostra vita. E allora andate, date l'esempio a loro, fate in modo che possano entrare il prima possibile nel servizio di Dio, perché è qualcosa di fantastico poter servire Dio insieme. Chiusa la mia introduzione. Oggi volevo parlarvi di un personaggio che mi sta parlando in modo particolare ed è quello di Elia. Elia, per me, quello che noto nella sua vita è l'ubbidienza che ha avuto. È vero, miracoli, prodigi, fatto cose fantastiche, ma l'ubbidienza della sua vita è qualcosa che voglio entrare ancora di più, qualcosa che Dio mi sta parlando. E c'è una storia, in modo particolare, una storia dove in pratica è arrivata la risurrezione di un figlio, di una vedova. Ma prima di arrivare a questa storia avevo a cuore di anticipare, di dire quello che è successo prima, perché so che sto incoraggiando qualcuno in questo momento con questa storia che voglio anticipare. Vi ricordate, a un certo momento c'era questa vedova di Sarepta e in pratica non aveva più nulla da mangiare. La Bibbia dice che aveva un po' di farina, un pugno di farina, aveva un po' di olio, è andata a prendere due pezzi di legno per fare l'ultima cosa e poi la Bibbia dice mangeremo e moriremo. Per questa donna era il suo ultimo giorno, per questa donna la speranza era chiusa qui, cioè non c'era un domani. Eppure, quando per noi il giorno sembra essere terminato, che non c'è speranza per il domani, è proprio lì che Dio può fare il miracolo. Io vedo che questa donna, ormai il suo desiderio era questo, cioè mangeremo e moriremo. Ma quando è lì arrivato e ha fatto questo miracolo di moltiplicare questo olio, questa farina, vediamo che Dio ha potuto dare un nuovo giorno a questa donna. E sapete quante volte noi viviamo nell'ultimo giorno? E io sento che questa mattina c'è qualcuno che sta vivendo in questo ultimo giorno. Magari non con questa espressione, mangerò e morirò, ma in un'altra espressione sembra che è l'ultimo giorno. Ma sappi che Dio è il Dio di un nuovo inizio per la tua vita. È il Dio della speranza. E quindi se ti stai dicendo questa mattina, oggi mangerò e morirò, no. No. Io voglio dichiarare vita sulla tua vita. Voglio dichiarare risurrezione in quello che stai vivendo. Voglio dichiarare che Dio può fare l'impossibile per la tua vita. Noi siamo il popolo della speranza, siamo il popolo che spera. È vero, speriamo il ritorno di Cristo. E wow, non vedo l'ora di questo giorno. Noi viviamo, io vivo per questo, vivo per vedere Cristo ritornare. Ma intanto siamo qui per poter servire. E so che ogni giorno Dio farà cose nuove nella mia vita. Ultimamente, 3 settimane fa, con mia moglie, sapete, anche in Svizzera abbiamo problemi finanziari, capita, ed era proprio un momento dove, voilà, mancava qualcosa. Ci mancavano più o meno sui 3.000 euro per poter andare avanti. Pregavamo e abbiamo chiesto a Dio, intanto servivamo senza nessun problema. A un certo momento arriva sul nostro conto un versamento di 12.000 euro. Wow, 12.000 euro. da uno sconosciuto, una ditta svizzera. E niente, da svizzero chiamo dicendo: mi scusi, ma non vi siete sbagliati a inviare questi soldi sul nostro conto? E la segretaria mi dice: la richiamo. Ok, mi richiama, mi dice: eh sì, effettivamente abbiamo sbagliato ad inviare questa somma sul suo conto. Bene, quindi si è smontato un po' tutto il nostro entusiasmo, e allora ho detto: ok, mi dica un po' dove posso ritornare i soldi. Lei mi fa: la richiamo. Mi ha richiamato e mi dà il conto dove ritornare i soldi, e poi ci ha detto: visto il disturbo che abbiamo creato, deve unicamente ritornarci 9.000 euro, 3.000 euro li potete tenere sul vostro conto. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio che serviamo, è il nostro Dio che si prende cura di noi per uno sbaglio, uno sbaglio secondo Lui, ma Dio fa ogni cosa. E ve ne posso dire un'altra di 2 settimane fa, è sempre nell'aspetto finanziario. Mia moglie è in esaurimento, cioè sapete, comunque figli, chiesa, lavora anche, quindi mi ha detto: mi devi portare al mare. Ok, la devo portare al mare. Dove, come, con quali mezzi finanziari? Allora niente, vado su Booking, prendiamo, sapete, quegli alberghi dove si paga unicamente quando si arriva, così non si anticipa niente. E vabbè, tentiamo di andare. Il giorno prima riceviamo 1.000 euro in buca lettera, era la somma esatta tra benzina, viaggio, mangiare e anche hotel per poter fare anche questa mini vacanza di 3 giorni al mare. Perché sapete, Dio si occupa anche di questo nelle nostre vite. Dio si occupa anche del nostro benessere, Dio ci vuole bene, vede lo sforzo che facciamo per Lui, e Dio si occupa di noi. Questa è la Bibbia, questo è il Dio che arriva quando noi pensiamo che è l'ultimo giorno. Mangeremo e moriremo, è proprio lì che Dio può fare qualcosa nella tua vita. Devi unicamente sperare in questo Dio grande, Dio dei miracoli, il Dio che può fare ogni cosa per la tua vita. E qui ci troviamo in questo passaggio dove in pratica Dio ha fatto questo miracolo, quindi questa donna e questo figlio hanno potuto mangiare per molto tempo, dice la Bibbia. E arriviamo in Primo Re, al capitolo 17, al versetto 17, e vi è scritto: or dopo queste cose, quindi dopo questo miracolo, il figlio di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò, e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Quindi stava vivendo qualcosa di straordinario, di questo miracolo dove Dio ha dato loro da mangiare, e neanche poter gustare questo miracolo, questa cosa straordinaria che Dio ha fatto, ecco che succede qualcos'altro di molto tragico nella sua vita. E non so se capita anche a voi, ma è una gioia, cioè viviamo qualcosa di bello e subito dopo ecco che capita qualcosa, e ogni volta è così. Ma sapete quello che sto imparando? Perché è proprio il tempo dove sto imparando proprio questo. Quando la Bibbia dice che vi è più gioia nel dare che nel ricevere, è proprio questo, perché la mia gioia non dipende da voi. Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. La mia gioia non dipende da voi. Non dipende da quanto mi date, dalle circostanze buone che ci possono essere. La mia gioia dipende dalla mia relazione con Dio. Vi è più gioia nel dare che nel ricevere, perché se fosse il contrario, io sarei unicamente gioioso quando ricevo. Invece la Bibbia dice che vi è più gioia nel dare, quindi quando noi diamo, perché abbiamo una relazione con Dio, è questa la vera gioia, ed è questa la gioia che Dio vuole mostrare a questa donna. C'è qualcosa in più, e sapete, Dio non fa un miracolo fine a se stesso, ma quando Dio compie un miracolo è perché vuole cambiare la tua vita. Questo è il fatto straordinario del miracolo di Dio. E Dio ha fatto un miracolo in questa donna, nella sua famiglia, ma Dio voleva andare più in profondità di quello che lei stava vivendo in questo giorno. Allora cos'è che è successo? E sapete, quando il figlio, specialmente di una vedova, muore, ecco che questa donna in pratica perde ogni sicurezza, perde ogni aspetto finanziario, perde il valore nella propria società. Quindi potete immaginare questa donna che stava vivendo qualcosa che ha proclamato in precedenza: mangeremo e moriremo. Ed è accaduto proprio adesso, perché la morte di suo figlio era uguale anche alla sua morte, perché perdeva tutto il valore. Sapete, quando noi dichiariamo qualcosa, le nostre parole producono effetto, sia a livello positivo che a livello negativo. Questa donna ha dichiarato qualche tempo prima: mangeremo e moriremo, e questo è arrivato. Dobbiamo fare attenzione a quello che proclamiamo nelle nostre vite, proclamiamo su noi stessi parole di vita, parole di risurrezione, parole su speranza. È importante che dalla nostra bocca escano parole, perché le nostre parole possono creare speranza, creare futuro nelle persone. Ma iniziamo con noi stessi. Siamo molto bravi a dare parole agli altri, incoraggiare gli altri, ma iniziamo a incoraggiare noi stessi. Dichiariamo positività, nel senso parole di vita per noi, per la nostra famiglia, e dopodiché potremo anche dare questa vita agli altri. È importante che iniziamo su di noi. È importante vivere qualcosa di reale noi stessi per poter andare fuori e poter vivere qualcosa di concreto. E questa donna ad un certo momento ecco che si è bloccata, perché la Bibbia dice al versetto 18: che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Sapete, quando noi iniziamo a vivere per Dio e abbiamo delle esperienze con Dio, quando noi decidiamo di vivere per Dio, c'è qualcuno che è venuto perché vuole farci morire, vuole distruggere. E Satana è venuto per distruggere, per abbattere, per farti morire. Ma Gesù dice che lui è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Quando noi iniziamo a vivere per Dio e quando decidiamo di vivere per Dio, decidiamo di dare tutto a Lui, ecco che sicuramente c'è qualcuno che vuole distruggere questa vita. C'è qualcuno che vuole annientare i tuoi sogni, vuole annientare il tuo futuro, vuole annientare i tuoi progetti. Ma Gesù è venuto per darci vita, e questa vita è vita in abbondanza. E quindi com'è che fa a distruggere? Come fa a bloccare il nostro cammino? Ed è proprio questa donna lo sta dicendo. E una tattica che Satana usa per poter bloccare sono proprio i sensi di colpa. Qui vediamo che questa donna dice: sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità? Vediamo che questa donna, non so quello che aveva vissuto in passato, ma era bloccata dal suo passato, era bloccata dai sensi di colpa, era bloccata da qualcosa che non riusciva a lasciare. Sei venuto a ricordarmi le mie iniquità. Questa è una tattica. Ti vuole bloccare nel tuo passato. Ti vuole bloccare nei tuoi pensieri, ti vuole fare sentire in colpa. Vedi, se tu vivi questo è perché non stai facendo abbastanza per la Chiesa, non stai facendo abbastanza per Dio. Sensi di colpa arrivano, i sensi di colpa ci bloccano. E quando qualcosa ci blocca, sembra che siamo inchiodati per terra. Non riusciamo ad avanzare in quello che Dio ha previsto per noi. Ed è importante poter uscire da tutto quello che ci può bloccare il nostro passato per poter andare avanti. E quindi vediamo che ad un certo momento anche Gesù, quando ha visto questa donna che stava per essere lapidata, ricordate la storia, anche Gesù ha detto a questa donna: alza gli occhi, chi è che ti sta accusando? E intanto uno a uno le persone se ne stavano andando. Chi è che ti sta accusando? E la donna dice: nessuno. Bene, neanch'io ti condanno. Va e non peccare più. In Dio non c'è nessuna condanna. Se ti senti condannato, non viene da Dio. In Dio non c'è nessuna condanna. La condanna serve unicamente per bloccarti. Quando siamo condannati vediamo unicamente le barre della prigione, ma non riusciamo a vedere un futuro. Noi siamo liberi da questa condanna perché viviamo per grazia, viviamo in quello che Dio ha previsto per la nostra vita. E allora questa storia ci vuole mostrare come possiamo essere liberi da questa condanna, come poter uscire da questi sensi di colpa. E ad un certo momento arriva, penso, il passaggio principale che volevo proprio comunicarvi, perché per Dio, per Lui l'importante è darti vita. E com'è che può darti vita? Al versetto 19 vi è scritto: Elia rispose, dammi tuo figlio. Com'è che Dio può darti vita? Dammi tuo figlio, dammi ciò che in questo momento nelle tue mani è morte. Dammi ciò che in questo momento nelle tue mani ti sta bloccando. Dammi ciò che in questo momento tu non vedi speranza e non vedi futuro. E Dio non ce lo vuole togliere perché non ce lo meritiamo. Dio ce lo vuole togliere semplicemente perché se ne vuole prendere cura a Lui. E sentivo forte questa parola per voi. La sto vivendo, ma è qualcosa che volevo comunicarvi. Dammi tuo figlio. Dammi qualcosa che tu sai che devi darmi, ma non riesci ancora a darmi. Dammi qualcosa che ti ho chiesto, ma che non sei ancora pronto di dare. Dammi tuo figlio, è qualcosa che Dio ci sta chiedendo questa mattina e andremo più in profondità in tutto questo. E sapete, parallelamente c'è una storia, quindi quello che sto dicendo di Elia è qualcosa per noi a livello personale. Questa storia di Gesù che parla della stessa cosa in parallelo è per voi come chiesa. A un certo momento Gesù, dopo aver vissuto miracoli con i propri discepoli, stava entrando in una città, e mentre stava entrando in questa città, dall'altra parte la Bibbia dice che una vedova stava portando appunto a seppellire il proprio figlio. In questa immagine vediamo l'entusiasmo dei discepoli che hanno vissuto cose straordinarie con Dio, quindi l'entusiasmo, la vita che stavano portando in questa città, ma dall'altra parte c'era questo corteo funebre. La vita e la morte si sono incontrati. E lì sta a noi scegliere se seguire la morte oppure che siamo noi a poter influenzare quest'altro corteo. E voi come Chiesa siete chiamati a decidere. Noi siamo il corteo della vita, siamo il corteo che porta speranza, siamo la Chiesa di Cristo, siamo la Chiesa che deve portare speranza, deve portare vita. E avevo proprio questa immagine per voi, quando voi camminate ed entrate in nuove città che Dio vi darà, è proprio questo quello che dovete decidere. Vogliamo influenzare la morte? Vogliamo influenzare questo corteo o vogliamo lasciarci intimorire e ritorniamo indietro? Per voi questo è un tempo dove la vita che siete voi e la morte si incontreranno. Gesù ha deciso di prendere posizione. La Bibbia dice che Gesù ha visto questa donna. Gesù sta vedendo il tuo cuore. Gesù vede quello che tu stai vivendo oggi. Gesù vide questa donna e la prima cosa che ha detto questa donna è non piangere. Ma sapete, non è il non piangere come magari io ogni tanto dico, dai non piangere, passerà. No, Gesù quando dice non piangere lo dice con autorità, perché sa che veramente il tempo del lutto è terminato e questo tempo di vita, di risurrezione sta per arrivare. Quando Gesù dice non piangere, lo dice con autorità, perché sa che è veramente arrivato il tempo per te e per la tua vita di non piangere. Non piangere vuol dire che c'è speranza, c'è una vita nuova, c'è una vita entusiasmante che Dio ha previsto per te. E allora Gesù si è fermato, ha potuto dare a questa donna questa parola, non piangere. E qui vediamo che, terminiamo qui ancora un attimo la storia di Gesù e ritorniamo ad Elia. Ad un certo momento vi è scritto dammi, quindi non per toglierti qualcosa ma per liberarti le tue mani da qualcosa che altrimenti morirebbe di certo. Sapete, ho proprio questa immagine che noi abbiamo tra le mani questa situazione, questa circostanza, che non vogliamo dare a Dio. Ma sapete, se noi teniamo questa circostanza nelle nostre mani, sapete il risultato che ne avrà? Sarà sicuramente la morte, perché l'uomo, la natura dell'uomo, porta alla morte. Per questo che Dio ti dice, dammi. Perché tutto quello che porto io condurrà alla morte. Ma se io do questo a Dio, che è vita e risurrezione, tutto questo potrà essere vita, potrà ritornarti, quello che tu stai dando te lo ritornerà vivo. Ma non solo vivo. Vi ricordate quando Abramo ha dovuto sacrificare suo figlio Isacco? Sappiamo come la storia, per l'ubbidienza non è successo, ma il concetto è, Abramo aveva un figlio. E Dio gli ha detto, dammi. Abramo ha dato. Nelle mani di Dio tutto diventa vita. Abramo ha dato uno. E Dio cos'è che ha ritornato ad Abramo? Ancora uno? No, ha ritornato una moltitudine di nazioni. Quando noi diamo a Dio, Dio non ci ritorna solo quello che noi abbiamo dato, ma ci ritorna questa vita e vita in abbondanza. Dio può far moltiplicare quello che tu hai dato. Se qualcosa rimane nelle mie mani, porta a morire, porta a non aver futuro, porta a non entrare in quello che Dio ha previsto per me. Ma quando io do, è vero, nelle mie mani io non ho nulla in questo momento, ma so che nelle mani di Dio questo porta vita, e so che il giorno che Dio lo deciderà, quello che io ho dato uno, Dio me lo restituisce con la moltiplicazione. Perché questo è il nostro Dio, e questo è quello che noi serviamo. Qualche anno fa, 15 anni fa, e sempre nell'aspetto finanziario, oggi vi parlo di questo, non era previsto, ma si vuole incoraggiare qualcuno sicuramente. Io e mia moglie lavoravamo tutte e due a tempo pieno in banca in Svizzera, quindi potete immaginare, vivevamo bene, diciamo. A un certo momento Dio ci chiede di licenziarci per andare a formarci in un altro cantone della Svizzera a livello di biblica e teologia. Ok, ci licenziamo senza più avere un futuro a livello economico. Allora andiamo dai nostri due datori di lavoro, vogliamo dare le nostre dimissioni, e prima che noi potessimo parlare, io nel mio lavoro e lei nel suo lavoro, allo stesso giorno, il mio datore di lavoro dice: beh, prima che tu devi dirmi quello che devi dirmi, vorrei darti un aumento e vorrei darti una posizione in banca. Ok. Sapevamo che era il tempo di Dio e mi sono licenziato comunque. Mia moglie, più o meno nello stesso orario dove lavorava, arriva dal suo datore di lavoro dicendo, il datore dice a mia moglie: prima che tu parli, devo dirti qualcosa. Voglio darti un aumento di stipendio. Mia moglie si è licenziata. Quando ci siamo incontrati a mezzogiorno per parlare, oh Fleur, si chiama Fleur mia moglie, vuol dire fiore, ed è veramente un fiore, quindi Fleur, ma sai cosa mi è successo? E mia moglie: no, tu non sai cos'è che è successo a me. E abbiamo vissuto la stessa cosa. Abbiamo deciso di licenziarci per poter partire nel nulla. Quindi cambiare casa, vivere senza più stipendio. E per chi mi conosce sono molto logico. Cioè io ho bisogno di vedere nelle mie mani. E quindi per me era un passo grandissimo che Dio mi ha chiesto di fare. Quello di poter dare a Lui questo aspetto di sicurezza economica, e c'è voluto quasi un anno, ma l'ho dato. E sapete, quando ho dato questo, con mia moglie abbiamo dato questo nostro aspetto, sapete cosa è successo? Ma non per rendervi gelosi, dopo una settimana arriva una lettera dicendo che lo Stato svizzero ci dava 40.000 euro per poter frequentare una scuola biblica. Mai successo a nessuno che lo Stato svizzero finanziasse per una scuola biblica, e questo ci ha permesso non di coprire tutto, ma ci ha permesso di andare nelle mani di Dio, in quello che Dio ha previsto. Noi abbiamo dato il nostro stipendio a Dio in pratica, ma Dio ce l'ha ritornato 10 volte di più, perché questo è il nostro Dio. Sapete che il nostro Dio è reale. Il nostro Dio è vero. Quando noi siamo sinceri con Lui e lo serviamo, Lui non può fare altro che benedire la nostra vita. E quindi questo fatto di dare, cos'è che succede? Succede che quando io do a Dio, è vero, nelle mie mani non vedo nulla, ma cos'è che dice Elia? È vero, poi è andato nella camera di sopra, si è coricato 3 volte, quindi il figlio è risuscitato. A un certo momento c'è questa preghiera, il versetto 21, che Elia fa e dice: Signore mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino. È sceso, è andato dalla mamma e ha detto: guarda, tuo figlio vive. Prima c'è un dare, dopo c'è un tornare e c'è un guardare. E sapete quello che la Bibbia dice prima? Non è la mamma che ha dato il figlio a Elia, perché spesso per noi è difficile consegnare a Dio. È veramente difficile poter dare un aspetto a Dio. La Bibbia dice che Elia, che è andato verso la mamma e ha preso il figlio. Se non ce la fai a dare a Dio, fai quest'altra preghiera. Dio, vieni in soccorso e prendi tu dalle mie mani. Spesso dobbiamo fare così. Quando non riusciamo a dare, chiediamo a Dio di venire Lui e prendere quello che non riusciamo a dare. E qui vediamo, a un certo momento Elia dice a questa donna: guarda. E sapete, magari oggi tu stai guardando nelle tue mani e non vedi nulla. Perché? Perché hai già dato a Dio, ma non vedi ancora nulla. Quello che Dio vuole dirti è: guarda, ma non guardare nelle tue mani, guarda nelle mie mani quello che io sto facendo. Guarda, tuo figlio vive. Quello che tu mi hai dato, che per te ormai era morto e era l'ultimo giorno, guarda nelle mie mani, sta vivendo, sta crescendo, sta portando frutto e arriverà il giorno che io ti riconsegnerò. Quindi oggi, se tu vedi nelle tue mani che non c'è ancora nulla di quello che stai aspettando, di quello che stai sperando, guarda con gli occhi di Dio e vedi con gli occhi della fede che tuo figlio sta vivendo oggi. Tuo figlio sta vivendo oggi. Non è un tempo dove tu devi vedere qualcosa di concluso, di finito. È tempo di vedere con gli occhi di Dio. Colui che crea dal nulla può creare qualcosa di grandioso nella tua vita. Colui che con una parola può creare all'esistenza. Questo è il nostro Dio. È quello che lo Spirito Santo ti vuole incoraggiare. E guarda, e Dio ti sta dicendo: tuo figlio vive, tuo figlio vive. Guardare con gli occhi della fede, perché questo è il senso di poter vivere con Dio. E quindi dai a Dio questa mattina. Dio ti dice: dammi. Non aver paura. Dio nostro Padre è colui che si occupa della nostra vita. Dammi semplicemente e vedrai che io farò vivere quello che tu mi stai dando. Questa è l'esperienza che stiamo vivendo con mia moglie, qualcosa di fantastico, il fatto di dare. E ho ancora tante cose da poter dare a Dio che non riesco ancora. Ci sono i tempi di Dio. Sapete, quando si parla con i credenti, tanti vivono per il miracolo. Sapete che la cosa più sbagliata è vivere per il miracolo. Io devo vivere per il Dio dei miracoli. Io devo continuare a servire Dio. Tanti aspettano il miracolo e si fermano. Si fermano anche a servire la Chiesa. Perché? Perché aspettano questo miracolo e allora sembra che non possono più fare niente. No, no, mai fermarsi. Io non vivo per il miracolo. Io vivo affinché il mio cuore possa essere trasformato dallo Spirito Santo, essere a somiglianza e immagine di Gesù Cristo, e affinché quando questo miracolo arriverà io lo posso contenere e la gloria possa andare a Dio e non a me stesso. Io vivo per il mio Dio, vivo per servire il mio Dio. Io so che Lui è il Dio dei miracoli e fa i miracoli, li avete visti anche voi i miracoli, ma non blocchiamoci a vivere per un miracolo. Sarebbe talmente riduttivo, sarebbe così superficiale vivere la nostra vita credendo in Dio, ma vivere semplicemente nell'attesa di un miracolo. Vivi servendo Dio. Cerca prima Lui e Lui si occuperà di te. Questa è parola di Dio. Non bloccarti in quello che tu stai vivendo. Continua a servire Dio. Dai il 100% per la Chiesa, dai il 100% per la tua famiglia, dai il 100% a Dio e vedrai che Lui si occuperà di te. Perché questo è il nostro Dio. E io sono fiero di poter annunciare questo Dio, di poter vivere questo Dio, perché è qualcosa di reale, qualcosa che per noi ci dà motivo di orgoglio. E quindi questa mattina Dio ti dice: guarda quello che hai nelle tue mani, quello che hai nelle tue mani, e per fede proclama con la tua bocca: mio figlio vive, mio figlio vive. E qui c'è questa storia poi di Gesù. Vediamo che Gesù ha toccato la bara, il figlio è risorto, ma anche qui non è un miracolo con un fine a se stesso. Gesù voleva dare un significato a questa risurrezione. E la Bibbia dice, cos'è che ha fatto Gesù una volta che questo figlio è risuscitato? La Bibbia dice che lo ha riconsegnato alla madre. Dio non si tiene mai quello che tu gli hai dato. Se lo può tenere per un tempo, ma è semplicemente un tempo dove sta fruttando quello che tu hai dato. Ma arriverà il giorno che Dio te lo ridarà. Tu continua a servire Dio. E io vedevo veramente anche la vostra chiesa, quindi c'è questo corteo funebre, questo corteo di vita che si incontrano, e voi siete questo corteo di vita. Vedevo tanta vita in voi, tanta vita nei vostri cuori, in quello che state facendo, nell'amore che avete per Dio. E quando voi entrerete in queste nuove città che Dio vi darà, voi non potrete fare altro che col vostro entusiasmo portare vita in questo corteo di morte che voi andrete ad incontrare. La Bibbia dice: o morte, dov'è la tua vittoria? Dov'è la tua vittoria? Siamo noi a portare vita, siamo noi a portare questa vita di risurrezione, siamo noi a portare. E quando la vita e la morte si incontrano, è la vita che vince. Siete voi che vincete per la grazia di Dio, con la vita che voi portate di Gesù Cristo nella vostra opera, nelle vostre vite. Questo è quello che Dio vi chiama a fare. Non abbiate paura di uscire dalla vostra città e di incontrare un'altra città e di andare a portare entusiasmo. Sicuramente incontrerete un corteo di morte, ma voi siete chiamati vincitori, più che vincitori, e portate vita. Io sono la via, la verità e la vita. Noi siamo coloro che possano aiutare le persone ad incontrare chi è la via, ad incontrare chi è la verità, ad incontrare chi è la vita. E vi vedevo veramente andare avanti insieme, in unità, con l'entusiasmo di tutto quello che Dio ha fatto nel passato per voi. Ma non è terminata qui. Non dobbiamo adagiarci in quello che abbiamo vissuto ieri. Io mi stanco facilmente, la nostra chiesa lo sa, io mi stanco facilmente di progetti, di luoghi, ho bisogno di vedere altro dopo qualche mese. Quindi la chiesa si muove abbastanza velocemente, sono anche stanchi nel senso, nel buon senso, però è così, fa parte della mia natura, ho bisogno di vivere altro ogni tot mesi. Ma è importante non vivere in quello che ho vissuto ieri. È importante vivere in quello che Dio mi dice oggi, ma è ancora più importante andare avanti. E quindi quando la vostra chiesa si sposterà in queste città che Dio vi darà, siate certi che il corteo di vita trionferà sul corteo di morte. Non abbiate paura delle sfide, delle difficoltà, degli impedimenti. Semplicemente date i vostri sogni a Dio, date i vostri progetti a Dio, e Dio sta già preparando qualcosa per voi, perché Dio è magnifico, Dio è fondamentale. La Chiesa è solo una piattaforma dove possiamo crescere, possiamo maturare, ma la nostra missione è fuori. Il corteo di vita si faceva fuori dalle mura, perché è lì che c'è la morte. E se vogliamo avere un impatto, usciamo dalle mura e andiamo incontro alle persone che hanno bisogno, perché voi siete portatori di vita. Questo veramente avevo per voi, come chiesa, questo corteo trionfante. Ma ora è tempo di dare. È tempo di dare a Dio, di non aver paura di dare quello che stai vivendo. Perché conosco il nostro Dio che riceve quello che tu gli stai dando. Tu lo dai morto e appena tocca la sua mano è già vita. Perché nelle mani di Dio non c'è morte. C'è solo vita, solo il fatto di dirlo. Signore, vieni anche incontro alle mie debolezze. Io ti chiedo, Spirito Santo, che questo possa essere un tempo dove possiamo dare, e sai, magari forse questo dare che Dio ti ha chiesto, che non vuoi farlo, può essere anche una somma finanziaria per la Chiesa che Dio ti ha messo nel cuore, ma che ti sta ancora trattenendo. Dio ti dice: dammi. Quello che tu stai vivendo oggi, qualcosa che per te è morto, lascia che lo Spirito Santo ora ti possa parlare, ti possa indicare in quale area oggi è il tempo di dare. Magari solo una piccola area, ma è da qui che si inizia. Non c'è più nessuna condanna per coloro che amano Dio, che sperano in Dio. Io voglio dichiarare questa parola sulla tua vita. Non c'è più nessuna condanna nella tua vita. Non lasciarti bloccare dai sensi di colpa. Non lasciarti inchiodare per terra dal tuo passato, da quello che hai vissuto. Sappi che con Dio abbiamo una nuova vita. Abbiamo una vita di risurrezione. Abbiamo una vita piena di grazia. E quindi questa mattina lo Spirito Santo ti dice: dammi. Io ti chiedo, Spirito Santo, di parlare ai nostri cuori. E se in questo periodo ti sei già detta più volte: oggi mangerò e morirò, sappi che è una bugia di Satana, perché tu non sei destinato a morire. Tu sei destinato a vivere e a vivere una vita eterna. Voglio proclamare vita su di te, vita di risurrezione su di te. Dove lo spirito di morte regna ancora, voglio dichiarare vita nel nome di Gesù, e che questa vita possa darti speranza, possa darti futuro, perché tu appartieni a Dio. Spirito Santo, lavora nei nostri cuori, compi l'opera potente che tu hai previsto questa mattina nei nostri cuori. Che oggi sia il tempo del nuovo giorno, il tuo tempo di vivere, è il tempo che Dio possa veramente mostrare la sua potenza in te. Ma finché tu controlli con le tue mani, per Dio è veramente difficile, perché Dio fa in base a quello che tu gli permetti di fare. Fai questo gesto di dare, profeticamente, dai a Dio, dai a Dio. E sai quello che Dio ti sta dicendo adesso? Ora guarda, è vero, tu vedi le mani vuote, perché hai dato a me quello che dovevi darmi, che io ti ho chiesto. È vero, tu stai guardando le tue mani e sono vuote, ma io ti chiedo di guardare con gli occhi della fede e di poter proclamare per fede: guarda, tuo figlio vive, tuo figlio vive, la tua circostanza che ti sta portando alla morte ora vive, perché io posso cambiare il lutto in gioia, posso cambiare ogni situazione. Questo è il Dio che vuole fare un miracolo nella tua vita in questo momento. Magari non vedi realizzato il miracolo, ma tu lo puoi già vedere per fede, perché Dio ti dice: guarda, ciò che tu che mi hai dato, che era morto nelle tue mani, nelle mie mani, sta già vivendo, perché io sono vita e risurrezione. Io sono vita e risurrezione. Spirito Santo, io ti chiedo che questa comunità possa ancora camminare con l'entusiasmo di tutto ciò che tu hai fatto nel passato, ma che possa avere l'audacia di andare in altre città ad incontrare ogni luogo dove c'è ancora la morte, dove la vita non è ancora passata. Che questa comunità possa portare vita dove la morte regna ancora. E io voglio dichiarare che dove questa comunità metterà piede, ci sarà vita, ci saranno miracoli, ci saranno segni, prodigi, perché tu attesti la tua parola. Attesti la tua parola. E io ti chiedo, Spirito Santo, di dare ancora più visione, di dare più aspettative in quello che tu hai previsto per loro, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Oh, grazie, Spirito Santo. Guarisci, guarisci. Ma sta lasciando la regola che mi sta lasciando. Tu sei buono, sei buono, Spirito Santo. E se oggi sei qui per la prima volta, vuole incontrare con questo corteo di vita, vuole venire nel tuo cuore, vuole darti speranza. Questo è il tempo, è un incontro che la vita fa con la morte. È il tempo che tu inizi a vivere, di dare fiducia a Dio, a colui che ha dato tutto per te. Questo è il tempo di decisione, dare anche la tua vita a Dio. No, Spirito Santo, fai l'opera che devi fare. Grazie. Dio è buono. Dio è buono. Dovete rispondere in ogni tempo. Dio è buono. Dio è buono. In ogni tempo Dio è buono. Questo è il Dio che vogliamo trasmettere. Che Dio benedica e che possa continuare l'opera nelle vostre vite. Amen.